E quante volte può un uomo voltare le spalle e far finta di non aver visto nulla? La risposta, amico mio, soffia nel vento. La risposta soffia nel vento. Il primo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo recita: tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Eppure, nel 2020, le risposte ad alcune di quelle domande di Bob Dylan soffiano ancora nel vento. Patrick George Zaki, uno studente dell'Università di Bologna, è stato arrestato qualche settimana fa dalla polizia egiziana con accuse di propaganda eversiva. Oggi, in quanto rappresentanti del Consiglio degli Studenti dell'Alma Mater, in quanto noi stesse e stessi, studentesse e studenti di un'università aperta e multiculturale, ma soprattutto e prima di tutto, in quanto esseri umani, siamo qui, in Piazza Maggiore, a Bologna, a mostrare tutta la nostra solidarietà nei confronti di Patrick. Molto importante, anzi è fondamentale, continuare a mantenere alta l'attenzione su questo caso. È per questo che siamo qui oggi, per chiedere che tutti i diritti di Patrick vengano rispettati, che non subisca torture e che ci sia completa trasparenza nel processo. Inoltre, come Consiglio degli Studenti, abbiamo lanciato un appello al governo italiano perché dichiari l'Egitto un paese non sicuro e valuti l'ipotesi di rivedere i rapporti diplomatici che intercorrono tra i due paesi, fino ad un eventuale ritiro dell'ambasciatore italiano in Egitto. Dopo l'udienza di sabato, uscendo dall'aula, Patrick è riuscito ad urlare "Forza Bologna!", come a dire che dobbiamo continuare a stargli vicino e a far sentire la nostra voce. È per questo che abbiamo pensato che il modo migliore per esprimere la nostra solidarietà nei suoi confronti fosse trovarci qui, tutti insieme, nel cuore della città di Bologna e dare lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ma prima di lasciare la parola ai compagni di Patrick, che daranno lettura, vorrei lasciare un attimo il microfono al magnifico rettore dell'Alma Mater e al sindaco della città di Bologna, che ci diranno due parole. Grazie. Care studentesse e cari studenti, colleghe e colleghi della nostra comunità dell'Alma Mater, cittadine e cittadini, lasciate che vi dica grazie. Grazie per la vostra presenza qui oggi, rispondendo insieme al nostro sindaco all'invito del Consiglio studentesco di marciare dal cuore della vita universitaria fino a questa piazza, simbolico abbraccio della nostra città. Abbiamo fatto un gesto piccolo, apparentemente così ordinario come lo è il camminare, ma siamo stati mossi da un desiderio grande, quello di pensare e far pensare a Patrick, arrestato all'aeroporto del Cairo mentre tornava in una pausa dai suoi studi a trovare la famiglia. Vogliamo pensare a Patrick, fargli sentire la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, condividere un momento tanto delicato della sua vita. E se così numerosi siamo accomunati da questo intento, assieme alle altre istituzioni del Consorzio Gemma, che stanno manifestando nelle diverse città europee proprio in queste ore, è perché Patrick è un nostro studente, un nostro compagno di studi, un nostro allievo e sopra ogni altra cosa è un cittadino dell'Alma Universitas, di una comunità accademica che in quanto tale non può conoscere frontiere nazionali, non dovrebbe subire divisioni culturali né tantomeno temere che non siano rispettati i diritti della persona. Patrick è iscritto a un master del programma Erasmus Mundus è testimone di un'Europa aperta, di quella libera circolazione di persone e pensieri che tanto hanno dato e continuano a dare per la costruzione di una società più equa e umanamente ricca. Ecco perché da subito tutti noi docenti abbiamo parlato di lui dicendo: è un nostro studente. I suoi amici lo hanno definito un nostro compagno di studi, le autorità bolognesi un nostro cittadino. In quella parola nostro è racchiusa non certo una rivendicazione identitaria, ma al contrario, la volontà di difendere l'idea di una comunità interculturale che dal confronto di persone con esperienze di studio diverse trae spunto per crescere e migliorare il mondo. In quest'ottica sì, Patrick è nostro studente, nostro cittadino, nostro compagno e la comunità Unibo e più in generale la comunità accademica internazionale ha bisogno del suo desiderio di sapere, delle sue domande in aula, dei suoi dubbi per continuare a far avanzare lo spirito critico e tener vivo il fuoco della conoscenza che mai si esaurisce. Ecco perché siamo qui oggi, in nome delle regole comuni della polis, del nostro vivere assieme, in seno a una comunità universitaria e cittadina basate sul rispetto e sulla capacità di tutelare e garantire i diritti naturali, primo fra tutti quello di pensare liberamente. Il filosofo Kant diceva che la violazione del diritto avvenuta in un punto della terra è avvertita in tutti i punti, quasi a suggerire un eco universale che ci consente di udire un appello anche lontanissimo e ci obbliga ad alzare lo sguardo e non rimanere indifferenti ma ad attivarci. Nelle poche parole che Patrick durante la detenzione ha potuto rivolgere a chi lo ascoltava era chiuso un desiderio intenso, quello di tornare a studiare, a frequentare i corsi che sono evidentemente riusciti nello scopo prioritario cui l'insegnamento universitario dovrebbe tendere: promuovere la conoscenza e insegnare la complessità, vera sfida per un nuovo umanesimo. Al raggiungimento di tale scopo concorrono il mondo di ogni singola persona, studente o docente che sia, ma anche i piccoli luoghi, le aule universitarie che quotidianamente frequentiamo. In questi giorni le aule sono spesso state evocate perché sono i luoghi nei quali ricerchiamo uguali opportunità, diritto a stare insieme e a imparare confrontandoci, il reciproco ascolto, il rapportarsi attento fra chi apprende e chi insegna sono la base fondamentale e necessaria per tendere alla conoscenza e in nome di questi valori siamo qui oggi, studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, cittadini di una polis orgogliosa della sua università, per far sentire la nostra voce e il nostro sostegno a Patri. Ci siamo in tanti ad aspettarti, a riporre la nostra fiducia nei saperi plurali e democratici e a dirti che non sei e non sarai mai solo. Vorrei concludere con un passaggio sul concetto di cittadinanza del mondo, un concetto che ha espresso Martha Nussbaum. Dice la studiosa nel suo capolavoro Coltivare l'umanità: diventare un cittadino del mondo significa spesso intraprendere un cammino solitario, una sorta di esilio, lontani dalle comodità delle verità certe, dal sentimento rassicurante di essere circondati da persone che condividono le nostre stesse convinzioni e i nostri stessi ideali. È nostro compito, in qualità di educatori, mostrare agli studenti come sia bella e interessante una vita aperta al mondo, quanta soddisfazione si ricavi dall'essere cittadini che si rifiutano di accettare acriticamente le imposizioni altrui, quanto sia affascinante lo studio degli esseri umani in tutta la loro complessità e l'opporsi ai pregiudizi più superficiali, quanta importanza abbia vivere fondandosi sulla ragione piuttosto che sulla sottomissione all'autorità. Abbiamo il dovere di mostrare tutto questo ai nostri studenti, se vogliamo che la democrazia nel nostro paese e in tutto il mondo abbia un futuro. Patrick. permettetemi di dare un grazie innanzitutto al Consiglio Studentesco che ci ha chiamati qui stasera e di dare un grande grazie a tutti voi, studenti e cittadini bolognesi, per essere qui, per aver camminato insieme questa sera per chiedere la libertà di Patrick. Siamo qui per ricordarci tutti noi, per la storia della nostra città, per quanto ci ricordano gli studenti che vengono da ogni parte del mondo nella nostra città, che la prima condizione della libertà è sapere dire di no all'oppressione, alla negazione della libertà di opinione. E siamo qui, forti anche del passato della nostra città, per dire che la seconda condizione della libertà è essere responsabili verso gli altri, non rinchiuderci nell'indifferenza o peggio ancora nell'egoismo. Questa città è una città che ha una sola parola nel suo gonfalone, libertà, e la sa interpretare. E io sono davvero orgoglioso di tutti voi e dei cittadini di questa città, perché vedete, è molto semplice. Lo spessore, la capacità, la statura di una città si vede quando è il momento di alzarsi in piedi. Grazie Bologna!